in spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei. E scherzava con tutti i ragazzi al cuore di me. Perché io le piacevo. Mi guardava.